Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Presto ho scoperto di essere morta. Siccome però mi toccava continuare a vivere, ho tirato avanti. Questo è l'incipit del romanzo La notte alla mia voce, scritto da Alessandra Sarchi, pubblicato da Einaudi. È uno dei 5 libri finalisti al premio Campiello, che verrà assegnato il 9 settembre a Venezia. Questo è un romanzo bello, veramente intenso, ma secondo me soprattutto vero. Parla di una donna che in seguito ad un incidente stradale diventa paraplegica. La stessa autrice è in sedia a rotelle, ma non si tratta, diciamo, di un romanzo autobiografico, semplicemente l'autrice conosce bene determinate dinamiche, determinate sensazioni. Allora, all'inizio la protagonista esprime soprattutto rabbia e difficoltà ad adeguarsi alla nuova situazione, non solo e non tanto per il fatto di non poter più camminare, ma soprattutto per il fatto di non avere più la sensibilità dalla vita in giù e quindi di abitare un corpo che in parte sente estraneo, proprio perché appunto non lo sente. L'autrice scrive: in sala rianimazione non erano stati i comatosi attaccati ai respiratori che avevo intorno a terrorizzarmi, ma i lunghi minuti impiegati per capire che ciò che avevo toccato e sentito duro ed estraneo era l'osso della mia anca. E poi ancora, a proposito della perdita della sensibilità, più ancora del non camminare era l'essere dentro quel corpo diventato estraneo e ingovernabile a terrorizzarmi, e il demone era lì, accucciato nei meandri del corpo perduto. Questa donna, la protagonista, insomma, che nel romanzo non viene mai chiamata per nome, incontra a un certo punto un'altra donna, anche lei in carrozzina, si chiama Giovanna e lei la soprannomina la donna gatto. Questa donna gatto ha un modo diverso di reagire sia al trauma che alla sua nuova condizione, e in questo aiuterà la protagonista a trovare un nuovo equilibrio. All'inizio però, dicevamo, da parte del narrante c'è soprattutto la rabbia, come ci racconta Alessandra Sarchi. Penso che a chiunque capiti di attraversare un'esperienza di malattia, di trauma fisico molto grande, poi ritrovarsi privo di funzioni che riteneva normali, insomma la normale dotazione fisica che ognuno di noi si ritrova, sia molto difficile da affrontare, anche perché diventa non solo una perdita di sé, ma diventa anche una perdita di ruolo sociale, perché comunque chi vive su una sedia a rotelle affronta una condizione costante, quotidiana, di minorità sociale anche. Ci sono diverse frasi che ho sottolineato in questo romanzo. A un certo punto tu scrivi: il mio corpo è lì tutto intero, ma mi tocca starci dentro senza più sentirne i confini, le funzioni precise. Questo pensiero mi spacca la testa, mi rende furiosa. Ecco, quando si pensa a una persona in carrozzina, molti di noi dicono: bah, forse il desiderio sarebbe quello di poter camminare. In realtà, proprio attraverso il tuo romanzo, si capisce che è molto più importante avere il concetto dell'essere dentro un corpo, del sentire un corpo e quindi della sensibilità. Sì, questo è un dettaglio che molti ignorano, ma le lesioni spinali creano una perdita di sensibilità che può essere totale, parziale, ma che comunque cambia moltissimo la percezione corporea. Noi siamo così abituati ad abitare dentro il nostro corpo e a percepirlo più o meno nella sua integrità, che perderne il controllo è davvero un'esperienza molto, molto alienante e molto straniante, e a quel punto bisogna ricostruirne una mappa. Io voglio fare un esempio anche per rendere più comune e più vicina questa esperienza a chi non l'ha provato, non ci si è avvicinato. È come quando si perde una persona cara, un amico, una persona che fa parte integrante della nostra vita. Pensarci senza quella persona è molto difficile, e quindi bisogna ridisegnare i propri percorsi, le proprie abitudini, ed è quello che si fa con il proprio corpo. Ed è paradossale, perché è il luogo che dovremmo conoscere meglio, perché è quello che abitiamo fin dalla nascita, eppure ci si può rivelare da un momento all'altro estraneo. Ed è un po' tutto il percorso che l'io narrante segue nel tuo romanzo. Lo definisco sempre io narrante o protagonista perché in realtà tu non hai esplicitato un nome di questa donna. Quello che sappiamo è che a un certo punto questa sua rabbia cambierà in qualcos'altro grazie ad un incontro con una donna che lei definisce la donna gatto, che ha una disabilità simile, comunque che lei è in carrozzina, non ha una gamba, ma soprattutto ha un modo diverso rispetto a lei di reagire al trauma. Come è fatta questa donna gatto? La donna gatto è una supereroina, quindi esercita dei superpoteri. E qual è il suo superpotere, visto che comunque è fisicamente altrettanto colpita dell'io narrante? È il potere dell'immaginazione. Noi sappiamo che l'immaginazione, forse quanto l'amore o insomma, sì, in una scala molto simile, ha il potere di aprire tutti i sigilli possibili e immaginabili, perché ci consente di vivere anche ciò che materialmente non possiamo vivere e ci consente di sfondare quelli che sono i limiti che ciascuno di noi ha, chi di un certo tipo e chi di un altro, nella nostra vita. Lei fa un lavoro in cui usa moltissimo l'immaginazione, ma ha capito che è l'immaginazione ciò che ci può salvare in realtà. Diciamo anche il lavoro che fa, perché lavora a un call center erotico, insomma finge di essere un'altra persona che si chiama Veronica e appunto parla poi al telefono di sesso e di corpo, insomma. Forse Freud avrebbe da dire qualcosa, perché hai voluto proprio fare in modo che la donna gatto facesse questo tipo di lavoro, cioè usasse la voce per parlare di corpo? Ah, perché la voce è l'elemento più immateriale che noi possediamo, però è anche la cosa che ci caratterizza maggiormente. Noi riconosciamo una persona anche senza vederla fisicamente, ma dal timbro vocalico, è un po' come un'impronta digitale, ma quasi più interna, come se fosse la cosa più sottile che esprime forse appunto quella zona così difficile da definire in cui la nostra psiche e il nostro corpo si incontrano. E poi è un paradosso che da un punto di vista narrativo mi sembrava molto efficace per rendere quest'idea dell'immaterialità dei nostri desideri. Noi pensiamo sempre di desiderare un oggetto, una persona, una cosa. In realtà noi lavoriamo di immaginazione intorno ad un oggetto, ad una persona, a una cosa, e la rivestiamo del nostro desiderio. E quindi questo è il lavoro che fa la donna gatto, che ha capito che l'arma più potente, tutto sommato, nei confronti anche del grande limite, dei grandi limiti che la vita comunque ci pone, è il desiderio, che è la cosa che ci fa scavalcare qualsiasi ostacolo. Tu hai parlato, hai accennato la parola amore, desiderio, immaginazione. All'inizio, quando la tua protagonista incontra la donna gatto, le sta anche un po' sulle scatole, dice: ma insomma, perché devo riconoscermi necessariamente in una persona perché è semplicemente la mia stessa disabilità? È come se tutti quelli coi capelli neri dovessero provare empatia immediata e così via. In realtà poi c'è quasi una forma di innamoramento, perché ha voglia di spiarla, di vedere cosa fa, di capire come reagisce alla vita. Possiamo definirla una forma di amore? Ma sicuramente c'è una grande attrazione fra queste due donne. Poi è una cosa che accade spesso fra donne, quella di cercare una compagna, una sorella, un'amica in cui rispecchiarsi e da cui differenziarsi anche, però, in una costruzione dell'identità che procede sempre per somiglianza e per differenziazione, ed è un po' il rapporto che forse noi abbiamo con la madre in origine, noi donne. Però sicuramente oltre all'attrazione c'è anche una forma di rifiuto iniziale, perché comunque la donna gatto è molto volitiva, è molto esuberante, ma anche delle zone d'ombra. Quindi il contrasto fra queste due donne e fra un modo diverso di affrontare una medesima condizione ci dice anche qualcosa in più, cioè che non è la condizione in cui ci troviamo o il problema che abbiamo da affrontare che ci unisce, perché la condizione non definisce mai le individualità e le persone, quanto la maniera in cui questa cosa può essere condivisa. Ci sono dei momenti nel romanzo, in alcune pagine, in cui si capisce che appunto anche la donna gatto legato a un dark side of the moon, insomma, a un lato scuro, a un lato nero, insomma. Questo fa parte appunto della normale umanità, non ha niente a che vedere con il fatto che lei sia su una carrozzina. No, infatti, ma io ho fatto una scelta estrema, cioè di due protagoniste che hanno un problema molto grave. Ma in realtà... Più che altro evidente anche, sì. Anche fisicamente, agli occhi del lettore e degli altri. Sì, infatti io spesso dico che queste sono disabilità oggettivate perché sono visibili, ma poi ce ne sono infinite altre che non si vedono ma sono altrettanto importanti nella vita delle persone. Quanti limiti e quante barriere interiori uno si trova a vivere e sono insormontabili. Tanto quanto quelle materiali oggettivate che noi vediamo. Quindi in realtà il messaggio è poi universale, non è un messaggio di categoria, ecco. Ecco, parlando in maniera proprio schietta, come stiamo facendo adesso, molte persone nei confronti di una persona in carrozzina non sa mai come comportarsi, dice non sa se la posso guardare, se devo distogliere lo sguardo, a volte non sanno appunto come approcciarsi. Cos'è la cosa che ti dà più fastidio? È forse la mancanza di sguardo, cioè il voltarsi da un'altra parte, anche lo sguardo fisso che è altrettanto invadente e probabilmente inopportuno, però la mancanza di sguardo indica proprio che è una realtà che non solo non consideriamo umana, ma che vogliamo evitare, come se fosse appunto una peste bubbonica, ma in realtà è solo uno dei tanti accidenti che possono capitare all'umanità, certo più spiacevole di altri, ma insomma questo non fa delle persone qualcosa di meno o qualcosa di più, insomma. Io penso sempre all'astrofisico Stephen Hawking, che non verrà certo ricordato per il fatto che è stato su una sedia a rotelle quasi tutta la sua vita, ma per le straordinarie scoperte che ha fatto e di cui l'umanità gli sarà sempre grata. E questa era Alessandra Sarchi, autrice di La notte alla mia voce, pubblicato da Einaudi. Questo è uno dei 5 libri candidati al premio Campiello. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Il cacciatore di libri. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. È uno dei romanzi arrivato in cinquina al premio Strega, si intitola Un'educazione milanese, l'ha scritto Alberto Rollo, pubblicato da una piccola casa editrice, Manni. Già dal sottotitolo si mette in evidenza che si tratta del romanzo di una città e di una generazione. La generazione è quella di chi oggi ha, diciamo, sui 60 anni e la città è Milano. Attraverso ricordi sparsi della sua vita, l'autore, diciamo, ci racconta una sorta di storia collettiva. Si parte dagli anni 50, quindi l'infanzia, la famiglia operaia, il comunismo, l'oratorio, la passione politica, gli amori adolescenziali. Tutto però parte con un episodio realmente accaduto. Alberto Rollo, bambino, si perde in una piazza di Milano. Un uomo lo solleva e chiede alla gente che è presente: di chi è questo bambino? Milano lo vuole? Ecco, che cosa ha rappresentato, Alberto, per te quell'episodio e soprattutto perché l'hai voluto far diventare il là di questa narrazione? Allora, questa domanda è interessante perché in realtà quell'episodio mi è venuto in mente dopo, è l'ultima cosa che è entrata in questa narrazione, ma mi è venuto in mente perché faceva parte della narrazione familiare, quella cosa lì dall'Alberto che si perde, viene ritrovato, e con quella frase molto specifica, con quell'interrogazione molto specifica, Milano lo vuole, che era ovviamente una maniera per rivolgersi ai presenti di quella piazza, di quel momento, e restituire il bambino. Ecco, io quando ho risentito questa frase dentro di me e per la risonanza che ovviamente aveva avuto lungo tutta la mia esistenza, ho detto è lì che da lì bisogna partire, perché in realtà questo libro parla di appartenenza. Cosa vuol dire appartenere a una grande città? È una grossa domanda. Che cosa vuol dire appartenere a Milano? È ancora più grossa perché è una città poco narrabile, che sta tra tanti luoghi comuni, ma non sta mai dove deve stare, perché ha un'identità difficile, ma ce l'ha. E allora è stata l'ossessione di gran parte della mia esistenza, questa, rispondere che cosa mi lega così profondamente a questa città, e ho cominciato a rispondere da lì. Un bambino viene restituito alla sua città che lo voleva, evidentemente. Ecco, infatti in questo romanzo Milano non è solo lo sfondo, diciamo che Milano è un personaggio, anzi è protagonista. Prima dicevi che Milano è difficile da raccontare. Leggendo il tuo libro ho avuto l'impressione che Milano sia quasi un oggetto da maneggiare con cura, un personaggio difficile da delineare. A un certo punto tu scrivi: Milano è così difficile da dire, come ci si muove si sbaglia. Salvo rarissimi casi, penso ad esempio che i narratori che hanno fatto di Milano un fondale siano tutti caduti in qualche errore, di sopravvalutazione, di sottovalutazione, di colore che non c'è, di assenza di colori, che è una pietosa banalità, di provincializzazione e di internazionalizzazione. Allora, insomma, qual è la Milano che tu hai voluto raccontare in questo libro? Qual è la Milano che ne viene fuori? Penso che la Milano a cui ho guardato è una Milano stratificata, una Milano dove, ad esempio, negli anni 50 e 60 la differenziazione di classe era fondamentale. Ho cercato di raccontare questa formazione, perché poi si tratta di, in fondo, di un romanzo di formazione dove l'amore l'oggetto dell'amore è per l'appunto la città. Fino a quando un'educazione funziona, quando si è tali per cui ciò che viene insegnato aderisce, cioè fino alla fine della giovinezza, non oltre, non si può andare oltre, dopo siamo noi che facciamo la città, ma fino a quel momento la città insegna, e insegna attraverso le forme che ha, attraverso la gente che ci sta, attraverso le differenziazioni, attraverso le contraddizioni. Hai parlato di differenza di classe, diciamo che è fondamentale per una città come Milano. La tua, lo dici esplicitamente nel libro, è stata un'educazione proletaria. La tua famiglia era proletaria, immigrata a Milano, tu sei nato a Milano. La tua è stata inevitabilmente anche un'educazione alla politica. Come pensi che quel periodo ti abbia forgiato nei fondamentali? Mi riferisco al rapporto con tuo padre, al rapporto con il comunismo, con la lotta proletaria. Allora, mio padre, come ripeto nel romanzo, teneva molto di più all'educazione operaia più che proletaria, perché era un aggettivo complesso, difficile, che io forse avrei potuto cogliere meno, ma avevo precisissimamente nella testa che cosa voleva dire appartenere alla classe operaia. Per me non è stato tanto decisivo per la mia formazione politica, ma per la mia formazione culturale e umana decisamente. La formazione politica avviene dopo. Mio padre era comunista, un comunista non di sezione, ma un comunista nei fatti. Si è fatto licenziare per difendere gli operai con cui lavorava. Era fatto di questa pasta. Era un operaio che pensava che il lavoro, che fare le cose era decisivo, che era importantissimo. La cultura del fare mi viene da lì. L'educazione politica viene dopo mio padre, viene invece, come recita il sottotitolo, con la mia generazione. Ed è anche lì un'educazione politica antipaterna a quel punto, perché bisognava pur liberarsi del padre, come tutti i giovani fanno, no? E quindi io mi schieravo più a sinistra di mio padre. La cultura del fare, diciamo che è tipica di Milano. Chi viene da fuori lo avverte chiaramente, ma secondo te chi arriva da fuori, appunto, riesce a trovarsi in sintonia con Milano proprio se entra in sintonia con questa cultura del fare, e viceversa, Milano accoglie bene chi percepisce l'importanza di questa cultura del fare? Questo è un discorso complessissimo, ma la risposta automatica è sì. Ci si intende là dove si comincia a connettere i valori che hanno a che fare con fare le cose. Credo che questa sia anche parte della bellezza di molta parte dell'accoglienza che per esempio Milano ha riservato alla migrazione, alle immigrazioni. Con tutte le contraddizioni che quello che sto dicendo contiene, ma esiste pur sempre una qualità di questo ricevimento, e il ricevimento si attua laddove si comincia a costruire. Ne sono convinto di questa cosa qua. Prima si diceva che questo libro accende un faro sull'infanzia e sulla giovinezza, perché questi sono, diciamo, i periodi della vita in cui si forma la persona, viene impartita l'educazione, poi l'adulto è il risultato di questo imprinting. Il libro si conclude con un episodio drammatico della tua vita, cioè la morte di un caro amico, Marco. Questa parte mi è piaciuta perché, diciamo, non è stereotipata e in maniera molto lucida tu scrivi: sono sempre stato consapevole che quella che ritenevo fosse un'intesa stabile, riferendoti appunto al rapporto con il tuo amico, avrebbe potuto finire comunque e senza il trauma del lutto. Poi aggiungi: non è una questione di fantasmi, e del resto Milano non è città di fantasmi. Nemmeno la sostanziale sparizione della classe operaia ha prodotto fantasmi. Ecco, cosa intendi dire con la frase appunto Milano non è una città di fantasmi? Intendo dire che Milano non è una città di fantasmi perché non gioca con le sparizioni. Le sparizioni sono tutte incise nella memoria. Quindi non si può ritornare come dei revenants, si è dentro la storia della città. Per me il racconto della morte di Marco coincide con un momento drammatico civile e politico, nel senso che tutto ciò avviene nel 75, in un momento in cui per l'appunto l'immaginazione, il futuro coloratissimo che aveva sognato la mia generazione incominciava a colorarsi di plumbeo. Anche il venir meno dell'amico con cui si pensava di fare cose immense, di fare cose grandi, di trasformare il mondo, non lo mette tra i fantasmi, ma dentro l'orizzontalità della memoria. Grazie ad Alberto Rollo, ora in libreria con Un'educazione milanese, sottotitolo Il romanzo di una città e di una generazione, pubblicato da Manni. Vi ricordo che questo è uno dei 5 libri finalisti del Premio Strega. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che potete trovare questa e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it, nella sezione appunto Il Cacciatore di Libri. Se volete sempre essere aggiornati potete seguirmi su Twitter e anche sulla pagina Facebook Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.